Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Noise. Questa sera deframmentazione sonora, saranno 2 ore di panico assoluto che non sarà neanche di facile ascolto per le orecchie più deboli, perché questa sera veramente avremo a che fare con gentaglia della peggiore specie. E il primo personaggio facente parte di questa gentaglia, la peggiore specie, questa sera ospite in studio, Mr. Chucky. Buonasera a tutti, tutti i telespettatori o radiospettatori. Dipende se ci vedono o se non ci vedono. È possibile pure che ci vedano. C'è qualcuno che ci vede dalla finestra. Ci potrebbero allora, in questo spiare caso, dall'edificio di fronte. Dall'edificio di fronte, allora sono dei telespettatori. Voi che state ascoltando siete dei radiospettatori. Facciamo delle distinzioni. E siete in ascolto di Radio Noise. Siete inserito nel contenitore di Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Se ci state ascoltando dal sito, votate, vedete tutto. Votate. 448202, scrivete sì e sì. Inviatelo. E quindi stasera puntata puntata quanto dire, non sicuramente leggera, strana come me, che appaio come la Madonna ogni tanto. Ogni tanto appare come la Madonna. Apparizione ogni tanto. Abbiamo provato a dargli una voce un po' modulata, però non abbiamo trovato gli strumenti necessari, ma faremo anche questo per le vostre orecchie, vi faremo divertire il più possibile. Yes, yes, yes. Quindi partiamo subito col primo pezzo. Mi si è fermata l'aria in gola. Partiamo subito col primo pezzo, uno dei più leggeri in assoluto. Allora sono i Korn e questo è il Twist. E voi siete in ascolto di Radio Noise. Primo esempio di deframmentazione, in questo caso linguistica, sì, sì, non sì. Solo sonora. È un esempio fantastico di rumorismo vocale. Tra l'altro è un testo che non ha nessun tipo di significato, no, ma sono soltanto dei suoni. Sì, è una serie di come definirle, però rumori ancestrali, definiamoli rumori ancestrali. Rumori ancestrali, tratto da Life is Peachy del 1996, grande album. Uno dei migliori degli anni 90, almeno in quell'ambito, insomma, crossover e company. Devo dire che è stato tra i migliori, tra le perle degli anni 90, insomma. Uno degli esempi di musica estrema, se vogliamo. Sì. E poi, tra l'altro, Life is Peachy, come avevo già detto ascoltando i Korn, è stato registrato con un mixer analogico degli anni 60, in un periodo in cui già il digitale funzionava, soprattutto in America. Però hanno utilizzato questo allora mixer forse analogico. Per quello che è uscito un album spettacolare, ce lo vogliamo chiedere. Forse la tecnologia anche aiuta o non aiuta? La tecnologia aiuta. Digitalizzazione aiuta o non aiuta? Ce lo ci prendono anche le impronte digitali, sti stronzi. Già se le prendono. Non va bene. La tecnologia va bene fino a un certo punto. Vi parla uno che utilizza ancora il Walkman. Sì. Sì, sono rimasto indietro nei secoli. Sono nato millenni fa. Tra l'altro un esempio lampante che gli anni 90 vivono ancora in ognuno di noi, sì, sono presenti e vivi. Porta avanti il discorso degli anni 90. Sono rimasto cristallizzato in un decennio. E quindi sei nel posto migliore in cui potevi essere. Sì, sì, sì. Radio stasera, Noise, che si occupa solo di stasera casco bene. E soprattutto degli anni 90. Ma ritornando alla deframmentazione sonora, noi adesso ci andiamo ad ascoltare un gruppo italianissimo della Diesi, esattamente Diesi. Sì. Marchigiani. dei bei marchigiani. Iesi mi sa che è nelle Marche, non vorrei sbagliarmi. Bravo, no? Bravo, okay, bravo. Le marchigiani, veramente dei ragazzi, anche li conosco, li ho conosciuti personalmente. No, personalmente. Dei gran bravi ragazzi. E in più portano avanti un discorso proprio destrutturazione particolarissimo. Affrontano tutti gli album che hanno fatto fino adesso, insomma, testimoniano una ricerca musicale, ecco, forse anche quello che si vedrà stasera. Insomma, gli esempi portati stasera sono esempi di sperimentazione, non sedersi sulla tradizione, che fa cacare oltretutto, quindi. E loro lo fanno molto bene, raggiungono, ecco, quella che io penso l'ho chiamata, ecco, la saturazione del suono. La definiscono anche loro, loro sono in primis a portare avanti questo discorso. Sì. E tra l'altro, non in questo disco ma nell'ultimo che è uscito, propongono ancora di più questa destrutturazione della musica, il rimescolamento delle note. Riavvolgimento, capovolgimento, estreme conseguenze. Diciamo, mettiamola così, va. Gerda, dominio della lotta. Grandi Gerda. I'm not afraid. Gerda, dominio della mia lotta. Grandissimi, gran pezzo, tra i migliori, tra i più belli di questo album. Che cosa vedo? Adesso penso cosa dico quando cosa non parlo. Cosa dico quando non parlo? Quindi già il titolo. Avrei detto cosa vedo quando non sento, però è un problema mio personale. Non ne faccio un cruccio agli altri, insomma. Ma potrebbe essere anche un in realtà potrebbe avere attinenza, cosa vedo quando non sento. Certo. Potrebbe avere attinenza, ma visto che il mio caso non ne ha. Il mio caso no, sono alla deriva. Comandante di una nave alla deriva. Inizia un'atmosfera di convivialità. Perché ci è venuto a trovare DJ Savino Nicola, che è tornato da Dubai. Appena tornato dalla vacanza a Dubai, chiediamo a DJ Savino che cosa ritiene di questa vacanza a Dubai. Ma vaffanculo, va. E facciamo un applauso a DJ Savino. Grandissimo Claudio. Ma non era DJ Savino, scusa. Era DJ Savino in realtà. Ah, era DJ Savino, è vero. Claudio Savino, il nostro amico di giù di Reggio Calabria, l'abbiamo conosciuto in un'estate tanto tempo fa. Vogliamo continuare nel percorso sonoro? Continuiamo nel percorso sonoro e ci affidiamo a un generale, in questo caso. Ah, è una persona di mia conoscenza, il più grande sperimentatore musicale degli ultimi vent'anni. Sì, uno dei pochissimi che ci sono in circolazione per il lavoro che ha fatto lui. Parliamo di Mike Patton, leader dei Faith No More, nonché poi militante in altri 800 progetti musicali, paralleli musicali. Cerebrali, diciamo. Più che altro sì. Progetti sonori di sperimentazione sonora. In questo caso però lui, ecco, utilizza molto la tecnologia. E in questo caso la tecnologia aiuta molto. Sappiamo dal disco con gli Executioners. Generale Patton versus General Executioners. Patton, certo. E abbiamo ascoltato già gli Executioners, abbiamo già ascoltato i Faith No More. E adesso ci ascoltiamo questo, vediamo che cosa succede. Vai con questo matrimonio. Vai Kenneth, spara il pezzo. Get out, punk! Yeah. General Patton versus Executioners, Get Up Punk. Grande pezzo, segue anche la passione, diciamo, non nascosta del generale verso l'hip hop, il rap, certo. E questo, che tra l'altro riesce ad ambientarsi benissimo in questo genere. se non ce la fa lui, siamo disperati. Tra l'altro, Executioners, che sono un gruppo di DJ hip hop che hanno collaborato, sì, New Yorkese, con East Coast, un sacco di gruppi, sì, hanno fatto collaborazione anche, ahimè, con i Linkin Park. Però vabbè, e quel pezzo è riuscito bene. Che dobbiamo fare? Mike Patton, che è uno dei padri degli anni 90, perché ha cavalcato gli anni 90 in lungo e largo e li ha riempiti di musica. Beh, e sì, di, è conciso di anche con la maturità innovazione musicale di Mr. Patton, certo. E poi tra l'altro il passaggio lo è iniziato con i Faith No More, quindi diciamo in ambito prettamente rock, se vogliamo, quindi standard per certi versi, se vogliamo, ma sicuramente più ascoltabile. I geni non riescono a stare fermi, devono esprimere la propria genialità. Ma avremo modo di ascoltare Mr. Patton in altre sue versioni, in altre salse abbastanza alquanto piccanti. Ma se di pazzi, se vogliamo, di geni stiamo parlando, continuiamo quindi a parlare di geni e ascoltiamo un gruppo che abbiamo ascoltato settimana scorsa, ed è il pezzo che io non ero riuscito a trovare settimana scorsa, ma avevo promesso che l'avrei messo, e così è stato. Loro sono i Primus e questa è Welcome to This World. Upon my brain. Oh, Loro erano i Primus con Welcome to this World. Altra destrutturazione in ambito musicale, almeno per quanto riguarda le quattro corde. Eh beh, ma sì, dal punto di vista del bassista Les Claypool, cantastorie degli anni 90. Sì, è uno di quelli che ha interpretato la musica non secondo i canoni tradizionali e per questo rimane alla memoria delle Però in generazioni certi, a in venire. Certi casi c'è bisogno di qualcuno che comunque suoni una musica un poco più ascoltabile. Questo è stato per i Primus, perché grazie all'uscita dei Red Chili Peppers, che hanno introdotto un basso funky completamente isterico, i Primus sono riusciti ad avere un po' più fortuna, sono riusciti ad essere certo, conosciuti per di comprare più. La birra e le sigarette ci vogliono i soldini, mi ricorda mia nonna, e quindi bisogna per forza anche sputtanarsi a un certo momento, ma non si sono sputtanati. No, diciamo che loro no, non si sono sputtanati, hanno avuto la fortuna che in quel periodo il funky ha avuto un ascolto diverso, uno sviluppo diverso americano. E loro sono riusciti ad avere più fortuna in questo senso, appoggiandosi in qualche modo al momento, insomma. Ne parlavo prima con l'ospite misterioso di questa DJ sera, Savino, con il nostro amico di Reggio Calabria, e veniva fuori appunto che i colori delle scarpe erano diversi. Ecco, appunto, i colori delle scarpe erano diversi anche in questo caso. Ah. Siete in ascolto di Radio Noise, sono le 21:26 minuti primi. Radio Noise @hotmail.it per raggiungere il contatto MSN. Radio Noise 010 @gmail.com per scrivere l'email. Siete sempre su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Queste comunicazioni tipo commessa. Ora ci rivediamo dopo lo spot pubblicitario, aspettateci 2 minuti. No, scherziamo. Allora, ci sarà nessuno spot pubblicitario. Allora, non facciamo pubblicità a nessuno. Mandiamo i consigli per gli acquisti con i Mastodon e l'altro gruppetto carino. Sea Beast Mastodon. finisce sempre con questi accordi taglienti. Spettacolare, quella che io chiamo, cioè ho denominato propagazione stand-up, cioè gli ultimi 50 secondi di cavalcata chitarristica, vedi che musicale. Consigli per gli acquisti allora, vedi, sì, vedi che ce l'hanno, ce l'hanno. È vero, io l'ho sempre, la prima volta che l'ho sentito, l'ho definita propagazione standard, certo. Era un modo per definire questa, sì, cavalcata musicale. Cavalcate finali come sempre con i Mastodon. Re indiscussi del Doom Sludge. Sì, sono nella nuova scuola, insomma. E voi siete attivi dal 2000, infatti. Sì, fine anni 90, sì, dal 2000. Però raccolgono fatto belle cose. Raccolgono sonorità che vanno dallo stoner al grunge più estremo dei Melvins, tant'è che hanno fatto parte di un disco, We Reach the Music of Melvins, insieme a tanti altri gruppi che hanno riproposto nella loro chiave alcuni brani dei Melvins, che sono un gruppo degli anni 90 che hanno... degli altri sperimentatori. Sì, degli altri sperimentatori. Degli innovatori. Nonostante le loro innovazioni hanno creato, hanno fatto in modo che si sviluppasse una concezione musicale che andava in certi versi, che ricordava un po' i Melvins, però che poi si affacciò sostanzialmente al mainstream, quindi parliamo del grunge. Loro sono i padri del grunge, però sono i padri di nicchia del grunge, perché poi il grunge è stato tutt'altro in realtà. Ma sì, hanno ispirato la gente che faceva, che ha fatto della musica, che fa della musica solo per fare musica, insomma. Forse non per averne un ritorno economico, non per arruffianarsi della gente. Apprezzabili e nuovi, nonostante abbiano fatto musica in tempi non sospetti, musica che ancora adesso non è scontata, ecco. Anzi, beh, è stranissima, probabilmente... è ascoltata 10 anni dopo, 15 anni dopo, 20 anni dopo. Non invecchia. No. Beh, probabilmente se si fossero affacciati anche loro al pop, diciamo, forse avrebbero perso un tutto. Sacco di caratteristiche peculiari, se non avrebbero tutto. Perso tutto. Quindi li vogliamo così, sì. E continuiamo a volerli così, i Melvins, ma fanno anche i Mastodon. Sì. Che sono un'evoluzione dei Melvins. Un'evoluzione, sì. Chiave metal e moderna dei Melvins. Sì, sì, perché sì. Aumentano la velocità, ma hanno anche loro le cavalcate come le avevano i Melvins, semplicemente con 100 bpm di meno i Melvins, quindi un po' più veloci i Mastodon. Passiamo. Perché si ricordano i Melvins come gruppo forse più lento della storia, tra i più lenti, insomma. Se non il più, sì, tra i più lenti sicuramente. Forse, se vogliamo, il più lento. Sì, senza riuscire a risultare così monotono, ma psichedelico, se vogliamo. Sì. Avvolgente. Simpatici e carico. E multiformi. E carini anche. Carini anche. Grande buzzo, bella capigliatura. Mr. Patton in un'altra versione, come avevamo annunciato prima, e quindi con un altro progetto parallelo, che poi è diventato anche principale per un periodo. Qui dentro militano personaggi. Pelle rossa. Nel progetto Pelle Rossa. Militano personaggi importanti della scena indie grunge degli anni 90. Se li sa scegliere i componenti, il generale. E quindi Tomahawk Laredo. Laredo. Laredo. We'll be right back. Tomahawk con la Redo. Eh beh, tre Mr. note. Patton, tre note. Sì, sì, tre note. Poi tre vabbè, note. Non si hanno dubbi sulla fantasia. La genialità, anzi, la fantasia. La genialità di Patton. E qui già si intravede l'interesse di Mike Patton che viene fuori nei confronti dell'hip hop, perché lui ci canta un po' di pop sotto musiche che sanno di Jesus Lizard, che sanno di bisognerebbe vedere insomma che cosa passa per la testa di quell'uomo. Vabbè, quello cos'è, pressoché impossibile riuscire a capire veramente. Fantastico Mike. È successo qualcosa? Ok, no, c'era un attimo. Ci siamo. È stato un attimo di panico. Vabbè, no, don't panic. E quindi noi stavamo pensando di continuare, visto che ci siamo, a potremmo parlare dare di qualche Mr. altro Patton. Sì, qualche altra notizia in più sul Patton nazionale, anche perché parla un ottimo italiano. Guarda, potrebbe benissimo essere definito italo-americano. Michele Pattone, per anni l'abbiamo definito Michele Pattone. È stato per anni abitato anche per un bel po' di tempo, ma non continuamente, però abitato per un periodo a Bologna. Sì. È stato nostro ospite, graditissimo, insomma. Non si può fare altro che dire questo. Fare i complimenti, dire grazie. Complimenti al generale. Dire grazie. Allora, in sequenza, visto che sono brevi e sono veloci e brevi, ascoltiamo un'altra versione i due pezzoni dal progetto. Tre pezzoni dal progetto Phantomas. E quindi voi adesso immaginate di aprire un libro e sfogliare le pagine 11, 23 e 29. Dall'album Amenaza al mondo. Loro sono i Phantomas. We'll be right back. Sì, ci siamo. Passati tre quarti d'ora dalla prima. Passati tre quarti d'ora. Allora, questa è stata una puntata. Come detto sono ospite io e doveva per forza andare così perché qualcosa. Era surrealtà. Io allora, proprio in sono in sostanza non ci siamo, di surrealtà. In sostanza non ci siamo accorti che fino adesso noi parlavamo a bambera. Niente realtà, di più di quello che facciamo tutti i giorni. In realtà quindi non è si niente parla, di nuovo. Sono parole in di libertà nuovo. Diciamo un sacco di cazzate. E allora avete ascoltato tre quarti d'ora di sola musica mentre noi parlavamo come degli idioti tra un pezzo e l'altro. Però in realtà non è successo questo nelle nostre abbiamo detto un sacco di cose interessanti. Se vi fa piacere, l'importante è che i radiospettatori sappiano che abbiamo detto delle cose interessanti. Fidatevi di noi, quindi facciamo finta che è appena arrivato. Avete ascoltato un poco di musica varia che allora andava... Grazie, ripresentami su. Vabbè, vai, allora. Presento e buonasera, benvenuti a questa decima puntata di Radio Noiz. Dopo tre quarti d'ora di assoluto silenzio causa problemi tecnici che ovviamente intercorrono sempre e comunque in queste situazioni, io introduco il maestro della destrutturazione musicale. Colpo di tosse. Introduco il maestro della destrutturazione musicale, Mr. Chucky. Grazie Genaz di questa bellissima introduzione. Sono io. Ti ho fatto attendere un pochino, tre quarti d'ora di attesa, ma sì, va bene, non è importante. L'unico risultato che ha avuto è che adesso devo andare in bagno. Devo fare la pipì. Allora, noi abbiamo parlato di un sacco di cose in questo frangente fino ad adesso. Ci siamo confrontati. Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti un sacco di cose. Tanto dei Sound of the City, ci siamo detti un sacco di cose e siamo arrivati alla conclusione che vogliamo fare una puntata che parli di gente che ha oltrepassato la tradizione musicale. Gente che ha tutti i pezzi che sono stati mandati esulano dalla tradizione musicale, fanno qualcosa che non è stato fatto, non è ripreso dalla massa informe. Quindi è bellissimo, dovrebbero farne di più di puntate del genere. No, e non le fanno, ma le facciamo noi, le fa Radio Noi. Qualcuno si accolla questa spesa. E allora lo fa Radio Noiz. E allora Noiz, un maestro della destrutturazione musicale Noiz Radio. È un un maestro della destrutturazione musicale è tale Demetrio Stratos. Oh, grande Demetrio. Noi fino adesso abbiamo ascoltato i Faith No More, abbiamo ascoltato Mike Patton in tutte le sue salse. Da chi ha attinto Mike Patton? Mike Patton ha attinto da un greco nato ad Alessandria d'Egitto tanti anni fa, trasferitosi in Italia negli anni 60, parliamo appunto di Demetrio Stratos e del suo progetto Togliaria. Prima con i ribelli in Italia appena arrivato, ma era più musica per con stare da ballo. Chiusi. Esatto. Era la balera, E poi il progetto Aria, diciamo più, ecco, ancora più sperimentale, anzi è partita da lì l'esperimento di Stratos con la voce, con cantare la voce, che è il documentario insomma che ha fatto che uscire. Consiglio di andare a cercare perché è un'ottima lezione. Sì, gli aspiranti canterini dovrebbero diplofonie, triplofonie, come cantare con l'orecchio. Agli dei e non a gente di poco conto. Come cantare con l'orecchio, detto in termini molto blandi. Come utilizzare l'orecchio come cassa di risonanza, le diplofonie o triplofonie. Okay. Quindi andate a cercare queste lezioni di canto di Demetrio Stratos. E quindi qua abbiamo un pezzo tratto dall'album Gli dei se ne vanno e gli eroi restano e gli dei se ne vanno. Sì, esatto. Il pezzo yeah. Guardati dal mese vicino ad aprile. Gustatelo. Area. na na na do do do ay ay ru na na na na na ay ru na na na na na na na na na do do do ay ay ru na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Demetrio Stratos e Iaria. Beh, che dove non bisogna dire nulla, ascoltare forse il religioso silenzio è la risposta. Gente che ha fatto musica, insomma, adesso sono passati non so 35 anni. L'ascolti adesso e la dovranno capire ancora in futuro, ecco. Nel nostro attuale presente ancora non si riesce a capire, no, alcune cose. Direi di no. Eh beh, La puntata è stata fatta ad hoc insomma, sì. Stiamo a parte il primo tre quarti d'ora che avete ascoltato di silenzio, però possiamo dire va bene, abbiamo problemi con il palazzo davanti che è troppo alto, è fatto il cemento armato fortissimo che l'abbiamo dovuto abbattere in questi due minuti, sì, per riuscire a far passare le onde. Abbiamo utilizzato sì, i nostri mezzi potenti e adesso si sente forse nell'etere, sì. Nel non so dove siamo trasmessi, siamo trasmessi dovunque, alla grande, alla grande. Allora un saluto agli amici eschimesi su al polo sud, polo sud. Adesso però devi salutarli in eschimese. Skliblab. Skliblablabla. A tutti gli eschimesi, non ne escludo uno. Anche le foche. E allora, vi è venuto sotto gli occhi un altro brano del generale Patton versus Executioners. Potremmo... Uno dei primi brani abbiamo ascoltato quando c'era, quando il Radio Noise era in silenzio stampa, non voluto. Sì, abbiamo... sì, sono forme di protesta involontarie. Involontarie, esattamente. I radiospettatori devono sapere che noi ci stiamo lamentando. Noi ci stiamo lamentando di questi mezzi non era poco potenti e di queste censure che si hanno nei confronti del web. Ci siamo autocensurati, ci siamo una forma di protesta, non era un disguido tecnico, ecco. In realtà era una forma di protesta, forma purissima di protesta, perché vogliono censurare il web. Allora questa era una forma di protesta perché ci vogliono imbavagliare. Allora io sono d'accordo con... tu sei d'accordo, trovo, soprattutto sono in un disguido con le intercettazioni, ci vogliono imbavagliare la verità. Allora noi ci siamo censurati involontariamente, inconsciamente ci sono incensurati. Quindi salutiamo anche colui che abbiamo salutato, ospite misterioso, l'ospite, DJ Savino, grande Nicola, un grande saluto Nicola a Nicola, tornato. Noi da salutiamo Dubai, che da ci pochissimo. Vuole salutare con un sincero e caloroso ma vaffanculo va. Nicola Savino, grazie, un applauso in tutta la Nicola sua Savino che questa sera è intervenuto per noi e con noi. E lo ringraziamo per essersi scomodato, insomma. Generale Patton versus Executioners, AWOL, Block Party Brawl. Of self-defense. I'm not interested in killing. I just General Patton versus Executioners. Gran bel pezzo. È tutto l'album, è molto carino, consigliabile, album, insomma, anche una carina diciamo conformazione digipack per chi lo volesse comprare nei molto, negozi. Molto carina e interessante. Bello acquisto. In sostanza è un il disco fa riferimento ad una strategia di guerra. Perché è disegnata sopra la mappa del mondo e ci sono gli attacchi che ogni brano fa in un punto del mondo. Sì, con le coordinate, tra l'altro. Risico musicale, dai. Risico con le coordinate. Conosce il gioco da tavola ormai famoso a chiunque. Quindi, gioco da tavolo. Tavola imbandita, pensavo a una tavola a quadrettoni con una tovaglia a quadrettoni con imbandita con del mangiare e del bere e dei carri armati anche, perché no? Attacco. Perché mettere il limite a qualcosa? Non ne vedo il caso. Cosa? E cosa? Caso. E quindi oltre a ascoltare un interessantissimo disco che vede l'hip hop che si scontra e si incontra con la tecnologia, con l'elettronica, con la digitalizzazione in tutti gli ambiti e con la voce estrema e fantasiosa e melodica e potente di Mike Patton, quindi oltre ad ascoltare un bellissimo disco potrete anche rifarvi gli occhi, perché il Digipack è stato creato veramente nei minimi dettagli, è stato pensato e studiato, ma c'è tutta la concezione del disco che poi si riflette sulla costruzione grafica del Digipack. Sì, è affare del signor Patton, l'Ipecac, ovviamente il disco è uscito per l'Ipecac, che è la sua etichetta, Ipecac Records. A proposito di Ipecac, che ha fatto uscire bei gruppi. A proposito di Ipecac, andatelo a vedere. A proposito di Ipecac, volevo segnalare una puntata dei Griffin sull'Ipecac. C'è anche, c'è una comparsata del farmaco Ipecac su una quindi cercate su YouTube Griffin Ipecac se non l'avete mai visto. È molto divertente. È divertente. Consigli per l'uso, è un farmaco che aiuta a vomitare. In sostanza. Sì. E quindi si crea questa pantomima con l'uso dell'Ipecac nella tirami famiglia Griffin. Tirami le orecchie, diceva il cane Brian. Esatto. Non voglio. Diceva Stewie, mentre si metteva un angolo e toccava. Una stupida scommessa finita male, ecco, questo è il riassunto della puntata, ecco. Di elettronica abbiamo parlato in un certo senso ascoltando questo brano di General Patton vs Executioners, e di elettronica parliamo e di destrutturazione sempre musicale, perché l'elettronica prende una nota e la rigira in 2000 modi diversi. Beh, e dando 2000 soluzioni diverse, dando un sacco di soluzioni diverse. Lui è un maestro dell'elettronica, un grande produttore. Sir Trent Reznor, Nine Inch Nails, March of the Pigs. Down! you feel better. The pigs have won tonight. They can all sleep soundly, and everything is alright. Nine Inch Nails, la marcia, la marcia dei porci, dei maiali. Quindi immaginate le persone che ritenete tali, delle persone che ritenete tali, che marciano al suon di questa musica. È un esempio di, un anche di ristrutturazione musicale e riuscire a staccare completamente l'esecuzione velocissima e cadenzata con un piano e una voce. Beh sì, una linea melodica invidiabile, anche quella del ritornello, diciamo così, se vogliamo dire. E caos e melodia nello stesso pezzo, ecco. Anche se stasera in realtà di ritornelli, per come vengono intesi, non tanto se ne può parlare. No, non ci interessano. Se vogliamo parlare di ritornello in termini canonici, magari un'altra puntata, non stasera. Non stasera, stasera non parliamo di ritornello. Stasera parliamo di strofe lunghe. Stasera parliamo di caos, di casino in musica, di antitradizione. Tutti i gruppi che portiamo stasera in playlist sono gruppi che esulano dalla tradizione, quindi tutto ciò che ascoltate in giro non lo trovate qui, e quindi no. Tutto ciò che trovate qui non lo ascoltate in giro. No, direi proprio di no. Un altro gruppo che non che difficilmente ascoltate in giro, a meno che non ve lo andate a cercare, non ve lo andate a ascoltare per volontà vostra. Tappatevi le orecchie oppure alzate il volume. Forse alzate il volume, alzate il volume. The Dillinger Escape Plan, Baby's First Coffin. To travel to time. relax and remember the promise of the sign. I wish you could see yourself now. Look at me, gently glide across the room, instrument of seduction. Let go of it, Rapunzel, let it down. Fino all'ultimo secondo. Grandissimi. Fino ovviamente secondo. C'è da dire che c'è anche, non a caso, Mike Patton in questo pezzo. È un featuring abbastanza importante. Un'altra versione di Mike Patton. Esatto, dall'album Miss Machine dei Dillinger Escape Plan. Beh, Mr. Patton si è innamorato di questo gruppo sentendolo. Ma come non poteva, visto? Si sono trovati. Viste le sue sperimentazioni. Come non poteva. Quindi siamo entrati nella fase veloce di questa puntata. Sì, puntiamo sulla velocità. Facciamo sentire un po' di pezzi che sono veloci per sui loro BPM. Natura. Italiani ed esteri, proporremo un bel po' di materiale super veloce, supersonico, ecco, sì, velocità supersonica. Allora, mettetevi il casco, copritevi gli occhi, alzate sempre il volume, perché adesso arrivano i Razed Fist con Get This Right. Get this right, it's not a bad way. So let me be there. come riescono i Razed Fist a inserire la melodia all'interno di un brano velocissimo? Un bel quintetto svedese che ha fatto scuola, insomma, da metà degli anni 90, ha portato la lezione di velocità supersonica in musica. Quindi in Svezia non ci sono soltanto i metallari, ma esistono anche delle perle. Anche delle tra belle tra cose, tutti sì, Refused, sì, anche sì, loro sì, scandinavi. Sì. Ma questo gruppo è interessante. Risulterebbe un po' anche noioso alla lunga sentirlo in tutti gli album. Però c'è da apprezzare dei la super velocità e la composizione dei brani, sì. Composizione che comunque risulta abbastanza, se vogliamo, ripetitiva. Il ciclo è sempre più o meno lo stesso. Però l'impatto sonoro vale la pena farli dare. Ascoltare perché sono un bel esempio. L'impatto sonoro che riescono a dare comunque, e poi se vogliamo, anche se monotoni per certi versi, però hanno degli, riescono a far entrare un giro dei giri degli accordi che cantano da soli. E beh, hanno un bel, si portano dietro note, un bel groove, note piene, quindi creano un bel groove. Passano, anche se sono pezzi da in media da 2 minuti a pezzo, però vabbè, standard punk hardcore. Sì, però anzi questo era abbastanza lungo, 3 minuti, quindi. Sì, sì, sì, sì, no, sono degnissimi di essere ascoltati. Ma vogliamo parlare anche della controparte italiana. Certo, io ho trovato molte somiglianze tra certo, ce ne sono. Non a caso gruppo, sono stati scelti, non a caso sono stati scelti. Ingegno, appunto. Gruppo italiano nell'ambito DIY. Hardcore, sì, do it yourself, ma devono essere, insomma, fatti passare perché se lo meritano. Hanno molte somiglianze con i Razed Fist, però una lezione all'italiana, diciamo così. Che Italians do it better. Dall'album Il Visionario dell'anno 2006 mettiamo un bel pezzo, Torna alla mente, che è l'open track dell'album. Loro sono gli Ingegni, voi siete in ascolto di Radio Noize e siete su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Ingegno, Torna alla mente. Sono la mente, mi sto girando, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha sedato, mi ha e l'incidere dei miei pensieri. Grande ingegno, ecco, ricordavano l'esperienza Reset Fist anche dai cori, quello lì li fa assomigliare tanto al quintetto svedese, no? I cori e la velocità supersonica, appunto, che è il tema di adesso, di questa decima puntata di Radio Noise. Effetti, insomma, che vi portiamo ad esaminare. E come riuscire a esprimere la velocità supersonica in 1 minuto e 37 secondi lo andiamo a vedere immediatamente. Loro sono ancora gli ingegni dal visionario, come il visionario un inverno senza fine. Un bel gruppetto, veramente. Ho avuto anche il piacere di vederli live un paio di volte in giro per l'Italia. Vale la pena andarli a vedere e sentirli, insomma. Poi vale anche la pena fare un po' di stage diving, se sei il tipo. Se sei il tipo, sì. Se no te li stai a guardare da lontano, ma è difficile non essere coinvolti, ecco. Esatto. Riescono a creare una certa atmosfera, una certa elettricità. Abbastanza. Oltre ad essere dei bravissimi musicisti. Musicisti. Quindi voglio dire, ingegno, se li trovate in giro, se li trovate nelle vostre città, Andateli a vedere perché meritano tanto. Meritano assolutamente. Allora, DJ Savino è solo per supervisionare questa sera, ma con DJ Savino stiamo preparando una puntata dedicata interamente a quel gruppo indie, eh? Che palle, ha detto lo stesso DJ Savino, ha detto che palle. Ma ci vuole risalutare DJ Savino per chi si fosse messo in ascolto solo adesso. Arima baffanculo, va. E quindi un ringraziamento a DJ Savino che grazie questa sera, Nicola, per le è venuto parole. Ad ascoltarci, a supervisionare, perché Radio Noise è stato attirato da Radio DJ. E quindi DJ Savino che vuole un problema, ma no. Anche io venendo qui non sapevo, insomma, avevo un po' di confusione sul da farsi, non sapevo se ero a Radio DJ o a qualsiasi altra radio. Ma è il problema dell'alienazione che mi ha e che io ho. Vogliamo proseguire sul discorso supersonico, di velocità supersonica. Così. Volete ascoltare un pezzo supersonico? Ascoltiamo un pezzo supersonico. E allora gli mettiamo un pezzo supersonico. Alle 22:26 minuti, quando manca soltanto una mezz'ora alla fine della decima puntata di Radio Noise, dall'album dedicata alla deframmentazione in musica, esatto, dall'album Miss Machine, abbiamo Panasonic Youth Opening Track. The Dillinger Escape Plan, ancora una volta. Once again. The Dillinger Escape Plan con Panasonic Youth, Join to Panasonica. Mentre il nostro Mr. Chucky si è allontanato un attimo per problemi derivanti da assemblee imminenti. 22 e 29, quindi io do quello dell'occasione per dare due contatti e per salutare chi è entrato in onda, chi si è collegato soltanto adesso, e per rinnovare i saluti a chi ci sta ascoltando dall'inizio. Radio Noize @gmail.it per aggiungere il contatto MSN, Radio Noize 010@gmail.com per scrivere le mail e avere informazioni. A tal proposito, martedì prossimo saranno in studio live, seconda puntata live dedicata quindi live in studio acustico, ci saranno i Maieutica dalla Calabria Saudita. www.myspace.com/maieuticastyle per andare a vedere e ascoltarli, quindi li ascolteremo dal vivo, ascolteremo il loro EP, ci faremo due chiacchiere insieme ai Maieutica. Rieccolo, sono tornato, problemi con l'alcol, scusatemi radiospettatori, ma sono problemi che cerco di affrontare tra me e me. Non voglio coinvolgere nessun altro. Speriamo che tu abbia risolto. Ma vedremo, Genaz, vedremo. Il tempo sarà giudice delle nostre azioni. Va bene? Certamente. Certo, tutto bene. Tutto bene, tutto bene quel che finisce bene. Tutto avete bene, ascoltato il saggio bene. Di velocità. Il saggio di metal e jazz, dai. Intrecciato con il delirio sonoro. Questi sono gruppi veramente scaltri. Che poi, tra l'altro, il nome dei Dillinger Escape Plan si rifà a John Dillinger, che fu un ladro un grande famoso, bank robber, come direbbero gli americani. Che come sono i dischi dei Dillinger Escape Plan, così è stata in realtà la vita abbastanza movimentata e costituita da una serie di peripezie che l'hanno portato poi alla fine misera. All'immortalità, Kenaz. All'immortalità, che cosa all'immortalità l'hanno portato? Se si esce storica dagli schemi, si va incontro all'immortalità, alla conoscenza del nome senza fine. A che prezzo? Il prezzo da pagare è sempre alto. Già vivere la vita si deve pagare un prezzo troppo alto. Almeno gli facciamo vedere che non siamo, non facciamo parte della massa informe. Già quello è un buon inizio. E noi da piccoli uomini comuni che cerchiamo di dare un segnale e qualche delucidazione su ciò che può essere la vita ascoltata in maniera diversa. Avete invitato un immortale alla puntata radio, adesso prendete le conseguenze dell'azione. Laghetto from Bologna. Dadaismo, dadaismo, dadaismo. Allora, piccoli problemi tecnici anche sulla scelta capita, del brano. Capita anche nella radio più sputtanate, come può essere Radio DJ, con un sacco di cazzate. DJ Savino, che è qua davanti a noi, che ha esperienze, di dice cazzate, che in realtà non è così, ma non funziona. Allora, piccolo disguido tecnico, rimandiamo indietro. Rewind, Laghetto, Ninja Core, questa è quella giusta. Peccato, visto l'adaismo. E c'è chi sta pogando nella stanza da solo e sta scapocciando. Allora noi siamo felici di questo, siamo molto contenti. Allora dedichiamo il prossimo pezzo da scapocciatone, da scapocciatori. Beh, un pezzo manifesto, diciamo, pezzo manifesto dei Laghetto. Dei Laghetto, 300 scimmiette urlanti. 400. Ne ho tolte 100, scusatemi, radiospettatori. 400 sono scimmiette. Sonata in B minore per 400 scimmie urlanti. Ah, ecco, era da giusto. Da quest'album, allora dedichiamo a Mister track numero 2, uomo. Pera, dai cazzo. Diceva, in realtà dice sono Fausto. Beccatevi questo dice. Dadaismo in musica. Dice sono Fausto a un certo punto. L'abbiamo sentito, l'abbiamo decodificato. Dice sono Fausto. Fausto o Pausto, ecco, oh, perché c'è un dubbio su questo. C'era anche il verso prima che sosteneva dice, sono Fausto, di poi fermare sì. L'oligofrenia galoppante, quindi lo scambio di consonanti all'interno dei termini. Quindi sono Fazzo, sono Pausto. Fausto, sono Fausto. Esatto. Poi riesce a rientrare nei ranghi dei grandi personaggi che ho anche visto live. E mi sono anche intrattenuto con il grande cantante chitarrista John Di Raudo. No, mi sono intrattenuto. DJ Savino ha fatto un gesto un po' brutto, però non vogliamo dire. Ma lasciamo all'ignoranza di Nicola Savino, la sua ignoranza, appunto. Che ci vuole risalutare. Saluta. Per coloro che si sono connessi solo adesso, che non sanno che abbiamo e non ci credono che noi abbiamo Nicola Savino in studio. Quindi, Nicola Savino, ti prego. Dai cazzo! No, sei emozionato. Questo Nicola. È quello che è riuscito a dire Nicola Savino. Lo ringraziamo per le preziosissime parole. Rientrava anche nel discorso di dadaismo in musica. Quindi questa sera è dadaismo in musica. Ma ce li abbiamo gli Zurco, li vogliamo mandare. Abbiamo gli Zurco, quindi li vogliamo mandare. Mandiamo un 04. Gruppo che veramente ho avuto una demo per le mani, sotto le mani, tra le mani durante di il questo Fest. Gruppo durante il Rhodes Fest dell'anno scorso. E ho conosciuto il cantante, ho parlato con lui, mi ha dato questa demo e l'ho ascoltata e devo dire che rispetto alla maggior parte della merda che gira in giro, questi sono veramente interessanti. Da Reggio Emilia, disco registrato in un fienile, se quindi immaginatevi l'acustica, d'aiuto, quindi però registrato, quindi dopo questo, dopo aver ascoltato questo dadaisti, brano, concezione dadaista della musica che non fa mai mai male. Quindi dopo aver ascoltato questo brano, pensateci bene e andate a registrare in un fienile. Loro sono gli Zurco e il brano è To Go To Die, va a morire ammazzato. In sostanza è questo, praticamente. Alla fine dei conti, come li distingui gli onesti e gli stolti? Eh beh, hanno un gran bel tessuto lirico, diciamo, la partitura scritta, il testo scritto è significativo. Voce strozzata in gola. Sì, quattro quarti dritti. Particolari. Riff taglienti. Belli, devo dire belli, mi sono piaciuti da subito, appena ho avuto la possibilità di ascoltare il CD, insomma, ne sono rimasto subito colpito e ho voluto proporli per questa serata anomala, anomalia musicale in questa trasmissione radiofonica. E come era stato premesso nelle email che Radio Noise aveva mandato ai più, in cui si diceva che non ne potrete fare a meno, questa sera è l'esempio, perché questa sera siete rimasti incollati, un bel po' di persone siete rimaste incollate ad ascoltare Radio Noiz, nonostante ci sia stato un primo quarto d'ora di silenzio stampa voluto, inconsciamente fate bene, voluto. Manica di stronzi. Beh dai, non si possono offendere se li chiamiamo manica di stronzi. Devono non anche si possono offendere, sorridere. Anzi, vi dovete, un sorriso vi ogni dovete tanto. Ritenere fortunati. Una puntata che ha invitato un personaggio atipico, anomalo. Per cui dicevamo, non poteva essere inizio di puntata nella parte non scritta, nella non letta non e non sentita. Un'apparizione, ecco, sono come la Madonna. E aleggia appaio ogni stanza. Tanto qua e là. E aleggia in questa stanza questa sera lo spirito di Chucky, la bambola assassina. Ah, per beh. Cui non poteva essere diversamente la puntata di questa sera con la bambola assassina. Prendetevi come questo. Protagonista. E allora continuiamo perché siamo giunti quasi alla fine. Quindi vi lascio vi lasciamo col penultimo brano prima di chiudere e di salutarvi e darvi appuntamento la settimana prossima con i Maieutica e chissà quando, ma il prima possibile, con Mr. Chucky, con la bambola assassina. Allora vi lascio a degli armeni. Dai, a dei grossi armeni, ad una voce lirica americani. Ad una voce lirica che canta su delle note distorte e grosse. E Serge Tankian nel progetto System of a Down, dall'album Toxicity, Bounce. E vai. With a girl a bit late, she had so many friends. I brought my pogo stick just to show her a trick. She had so many friends. Unannounced was their games, all players with no names. They lined up double quick, but just one pogo stick. Everyone gets to play. Exotic, but just one pogo stick. Distrutturazione in musica, 1 minuto e 54 di pura violenza sonora e lirica. Una lezione da musica questa sera da assumere. Dobbiamo assumere questa lezione impartita da Serge Tankian e Soji. Quindi mettetevi in ginocchio, armeni fate penitenza. Ospitati da United States of America. Mettetevi in ginocchio, fate penitenza, dite tutti quanti i vostri peccati, perché questa sera di peccati ne avete molti se pensate di essere dei bravi musicisti o dei geni musicali, perché così. Beh, vi abbiamo non dato è. Da pensare, dai. Un'alternativa se non altro, dai. Un altro minuto e 39 allora, di violenza e poi vi lasciamo con l'ultimo che cosa brano. Vogliamo mettere? Prima di dare la parola a Out of the Shell, delirio indipendente di intervento sociale. Ancora Raise It Fist, ancora Radio Noiz. That's why. We'll be right back. E anche l'assolo, come gli anni 70 insegnano, in mezzo a un minuto e 40 di pura violenza, ci inserisci anche l'assolo di batteria in stile di Purple. Se lo potranno permettere, evidentemente, Gans. Siamo giunti alla fine di questa 10ª puntata di Radio Noise. Io ringrazio vivamente con il cuore e do anche un abbraccio virtuale grazie a Mr. Chucky, la bambola assassina che questa sera è venuta e ha ammazzato l'etere. E anche Dan Peterson che mi ha aiutato in questa mia escursione musicale. L'ho studiato tanto su Sport Italia in questi giorni per allenarmi. Mi ha aiutato. Quindi ringraziamo anche Dan Peterson per averti ispirato. Sì, grazie Dan Peterson. Quindi siamo giunti appunto alla fine. Io ringrazio chi è stato in ascolto e che anche ha, grazie ragazzi, ha partecipato al silenzio stampa. Che manica di stronzi, non ci avete avvertito. Voi lo dovete dire, ma la regia è stata un po' in ritardo, però. Mandateci delle email, dei piccioni regia. Viaggiatori, mandateci qualcuno quando vi accorgete che non va qualcosa. Quindi la prossima volta che vi accorgete che non va qualcosa, radionoise@hotmail.it, raggiungere il contatto MSN o tutt'al più radionoise 010 scritto in cifre @gmail.com. Scrivete se siete alfabeti, va bene uguale, mettete X. E noi capiamo e vi rispondiamo. Grazie a tutti di essere stati in ascolto. Vi lasciamo con dei dadaisti, con lui che cantava con una calzamaglia a un autoreggente sul collo a Sanremo. Possiamo definirli anche loro dei dadaisti, certo. Quinto Rigo, Bentivoglio Angelina, noi ci vediamo settimana prossima. Grazie a Mr. Chucky, grazie a DJ Nicola Savino, che ci saluta per l'ultima volta. Ciao Linus, ciao, sei sempre il migliore, ci vediamo dopo. Ma vaffanculo. Buonanotte a tutti, vi lascio con Out of the Shell, Delirio Indipendente, Intervento Sociale. Noi ci vediamo martedì prossimo con i Maieutica, sempre su Radio Noise, sempre su Transizione di Fase. See you, goodbye, good night. Quinto Rigo, Bentivoglio Angelina. Anche i massi fuori grida l'uomo nero. Strisce di cortile veneziane, barechina, corridoi. Barechina, uomo nero. L'amo che Bentivoglio Angelina. Tu sei tutto per me, mai non volli colpire la tua fronte. I tuoi occhi, Angelina, non guardarmi così. Bramano le tue labbra di vita. Bentivoglio Angelina, tu sei tutto per me. Mai non volli colpire la tua fronte, no, i tuoi occhi angelina, non guardarmi così. Bramano le tue labbra di vita. E ti voglio Angelina, t'amo lungi da me. Il pensiero di ferire le tue ali. Non morire Angelina, ma abbandoni te. Angelina.